Spegni la censura, accendi blackout. sviluppato. E benvenuto, questo è il mercato. Integrato, interinale, somministrato, apprendista, stagionale, Coco Pro, occasionale. Non puoi vivere così, non puoi perdere oggi. Voglio ridere verso domani, correre. Pane circense, demagogia. Divide timpera la strategia. Chi è il jackpot milionario? È una preghiera a San Precario. Sistema globale, siamo carne da macello. Precario sociale, dannato in questo inferno. Thank you. che vita è questa qua. Alla continua ricerca della felicità, te lo offriranno in semplici latte, secondo i tuoi bisogni e la tua necessità. Il consumismo sterile va la re, impone bene a cui non rinunciare. Secondo standard pubblicitari, propaganda commerciali. Cosa bere, cosa fare, scelgo io, voglio sbagliare. The revolution burns in your mind, in your heart. Only to know and fight. All your tears will never die. Mettiti in fila, allineato, o sarai escluso, emarginato. Generazione tutte uguali, colazioni celebrali. Questo progetto anestetico totale ti vuole inerme senza pensare. Usa la testa, non delegare. Run your run, partecipare. Cosa bere, cosa fare, scelgo io, voglio sbagliare. The revolution burns in your mind, in your heart. Only to love and fight. Your dreams will never die. Hey, never die. Cosa avere, cosa fare, scelgo io, voglio sbagliare. Hey! senza sole, senza male. La dolce vita, malandrino, maccherrone, fare il pugno di carbone. La fatica, il tuo sudore, senza futuro, disperazione. Senza una lira, ma con il cuore. Senza lavoro, occupazione. Senza paura, immigrazione. Wow! Anti-Dego! Wow! Let's go! Ma quanti anni mafia, pizza e mandolino? Non sa di scappare per restare al tuo padrino. Una scugnizza, uno sciuscia. Ok, la pulita, tu vuoi fare l'America. Mangia spaghetti, l'hai imparato. Dalla tua storia di immigrato. Sulla tua pelle l'hai provato. E tu sei già dimenticato. Wow! Anti-Vego! Wow! Let's go! Wow! Anti-Vego! Wow! Let's go! Questi colori sulla pelle! Uno sole rosso, il sangue! Trasparente come il pianto sulle guance. Wow. Voglio solo avere ciò che il mondo non mi ha dato. Nel mio paese non c'è niente, questo è il mio reato. E questo è il paradosso, non hai imparato niente. Non hai fatto bagaglio di tutte le esperienze. Italiano oggi razzista, quello era il tuo passato. E questa è la memoria, la tua storia è cancellato. Questi colori sulla pelle. Uno sole rosso, il sangue. Il sudore trasparente. Anche sulle guance. Wow! Anti-Dego! Wow! Thank you.

suonano ste canzoni, per me armi e munizioni, da un garage fino alle stelle, vaffanculo presidente. La ragione ci distingue da chi ci vuole cambiare, perché noi siamo ragazzi, perché noi sappiamo sognare. Ci distingue da chi ci vuole cambiare, perché noi siamo ragazzi, perché noi sappiamo sognare. La ragione ci distingue da chi ci vuole cambiare, perché noi siamo ragazzi, perché noi sappiamo sognare.